Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Resta un po' di tensione sui mercati all'indomani della caduta di ieri, forti oscillazioni, borse ora ampiamente positive. Il petrolio scende sotto i $50 al barile, parleremo anche dell'impatto del calo del greggio e dell'euro. Chiusa la camera ardente di Pino Daniele, malumori tra i fan in attesa fuori, arriva anche D'Alema da un ingresso secondario, contestato. Le ceneri del cantautore al Maschio Angioino da venerdì per un omaggio, annuncia De Magistris. La delega fiscale sarà attuata senza il cosiddetto salva Berlusconi, conferma il governo. Resta alta la tensione, soprattutto all'interno del PD, in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica. Migliaia di persone in piazza ieri nelle città tedesche in una serie di proteste contro l'Islam, 18.000 solo a Dresda. A breve i probabili rinvii a giudizio per l'isochimica di Avellino. Altri due morti per l'amianto all'inizio dell'anno, sembra escluso il rischio prescrizione. Campionato dopo la vittoria di ieri della Lazio sulla Samp, in campo la Roma contro l'Udinese, giallorossi in vantaggio 1-0 nell'attesa questa sera di Juventus-Inter. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, oppure se volete intervenire durante la trasmissione il 349-238-6666. Partiamo dunque dai mercati dopo la forte caduta di ieri, le borse sembrano a metà giornata aver imboccato decisamente la via dei guadagni. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Abbiamo avuto una mattinata piuttosto contrastata per i listini europei. I temi sono sempre gli stessi: la debolezza del prezzo del petrolio, i timori sulla Grecia, sono tutti fattori che stanno continuando a preoccupare gli operatori. Adesso però abbiamo di nuovo un tentativo di recupero per i listini continentali. Segnaliamo però l'euro di nuovo sotto quota 1,19 sul dollaro. Il rapporto di cambio adesso è attestato a 1,1891. Per quello che riguarda il prezzo del petrolio, adesso un pochino di recupero, ma stamattina abbiamo riaggiornato proprio un paio di ore fa i minimi da aprile 2009. Per il Brent del Mare del Nord abbiamo toccato $51,23 al barile, il WTI, il greggio di riferimento americano, è scivolato sotto i $49 al barile, esattamente a 48,49. Adesso sono leggermente risaliti entrambi gli indicatori, ma di poco. Per quello che riguarda le borse, dicevamo quadro contrastato, però adesso il miglioramento rimane negativo solamente Londra, che sta perdendo circa mezzo punto percentuale, mentre la miglior piazza d'Europa è Milano, che guadagna l'1,18% dopo una mattinata un po' più faticosa. In recupero Enel, più 3%, abbiamo Intesa San Paolo fra i bancari in recupero, più 2,43%, bene Fiat, più 2,11%, TOZ, più 1,87%, mentre i cali rimangono abbastanza forti su Autogrill, meno 1,84%, Mediaset, meno 1,53%, e oggi cede terreno Monte dei Paschi, meno 0,8%, ieri tra le uniche banche a salvarsi dall'ondata di vendite. Direi che per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani, e come sempre sui mercati torneremo più avanti anche con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Il calo del prezzo del greggio e insieme il calo dell'euro, due fattori dunque che potrebbero favorire anche un rilancio dell'economia. Sentiamo. Mini euro, prezzi del petrolio in saldo, Banca Centrale Europea pronta a dare più stimoli all'economia. Il 2015 potrebbe essere davvero l'anno della ripresa. I fattori ci sono, almeno sulla carta. Il cambio che si deprezza sul dollaro aiuta le aziende italiane perché le rende competitive, soprattutto verso l'estero, e può dare una spinta al prodotto interno lordo del bel paese. Abbiamo calcolato, ad esempio, che una variazione del 10% del cambio euro-dollaro può avere un impatto positivo sull'economia italiana dello 0,4%. In una fase in cui cresciamo così poco, anzi l'anno scorso abbiamo avuto una diminuzione del PIL, questo è estremamente positivo. Così ci spiega Gregorio De Felice, responsabile studi e ricerche di Intesa San Paolo, e la tendenza è destinata a continuare. Altro punto a favore delle imprese è il greggio sempre più basso, che riduce i costi dell'energia, dei trasporti e così via. Sorridono anche le famiglie, che pagano meno per il pieno dell'auto e per le bollette di luce e gas. Ma ovviamente c'è il rovescio della medaglia, sottolinea l'esperto di borsa Antonio Lengua. Per le aziende che hanno il petrolio come componente di costo, una discesa dei prezzi del petrolio è assolutamente positiva, e anche per le famiglie italiane. Invece le aziende che hanno una componente di ricavo, come per esempio Eni, molto presente sui portafogli degli italiani, Saipem, Tenaris, una discesa del petrolio vuol dire minori ricavi e quindi l'azienda perde. perde rende nervosi i mercati. Basta pensare a quanto vale in borsa l'ENI per renderci conto dell'effetto che un suo calo può avere su Piazza Affari. Ma non è solo questo. Gli esperti ci spiegano che i listini azionari risentono soprattutto delle tensioni politiche in Europa. Un'Europa che alcuni definiscono un condominio particolarmente litigioso, viste anche le voci trapelate dalla Germania su una possibile uscita della Grecia dall'euro dopo le elezioni. Le conseguenze sarebbero difficili. Con la svalutazione della moneta, la nuova dracma, il collasso dell'economia e il possibile effetto contagio nei confronti dei paesi in difficoltà. Uno scenario a cui ancora pochi, però, in realtà, al momento sembrano credere. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo alla morte di Pino Daniele. C'è rabbia dei fan, almeno in parte, o quantomeno malumori per la chiusura anticipata della Camera Ardente a Roma. Là davanti si trova Francesco De Remigis. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno, dici bene Simone, il malcontento è cresciuto nel corso della mattinata perché i fan da questa mattina alle 8 sono arrivati qui alla Camera Ardente dell'ospedale Sant'Eugenio, che doveva essere aperta fino alle 12.30, invece dalle 9 è stata chiusa per volere della famiglia. Per ore hanno continuato a far passare i fiori dal cancello che divideva appunto la Camera Ardente dalle persone in attesa, ma nulla di più, sono riusciti a entrare soltanto amici e parenti. Un tratto intorno alle 11 si è visto passare anche Massimo D'Alema, un ingresso secondario, e questo, l'ingresso di D'Alema, ha creato le principali tensioni. Sono stati rivolti insulti e i primi atteggiamenti di rabbia sono scaturiti appunto da questo ingresso secondario, le accuse di essere un privilegiato. Molte persone hanno detto: gli unici che dovevamo entrare eravamo noi, e siamo qui con una delle fan in attesa da questa mattina, la signora Franca, che si è detta più che dispiaciuta e ribadisce qual è la sua posizione. Signora Franca, è così? Sì, sono rimasta male perché dopo una vita che seguo Pino Daniele, scusa, e ci tenevo a vederlo almeno per l'ultima volta, e invece niente, non ci hanno fatto entrare, sono riuscita a passare una lettera, spero che gliela diano, e niente, ci sono rimasta veramente male perché l'ultimo saluto volevo veramente darglielo, non così però. Grazie, signora Franca. Ecco, questa è una delle testimonianze di delusione, di profonda amarezza che è stata placata parzialmente solo poco fa dalle parole di Enzo Gragnaniello, cantautore amico di Pino Daniele, che si è avvicinato alla folla spiegando quelle che potevano essere le ragioni della decisione della famiglia, ovvero di voler mantenere un po' il contatto privato con Pino Daniele, anche una certa intimità, visto che non c'era stata occasione fino a ieri di poter restare un pochino tranquilli. Resta la delusione, restano una ventina di persone qui in attesa davanti al cancello della Camera Ardente, e al momento l'ingresso rimane ancora chiuso. È tutto, Simone, qui dall'ospedale Sant'Eugenio. Grazie a Francesco De Remigis. Il sindaco Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, intanto ha annunciato le ceneri saranno portate al Maschio Angioino. Lo ha intervistato Laura Viggiano. Si faranno tantissime iniziative per ricordare Pino, i suggerimenti, le proposte, le richieste, i desideri in questo sono tantissimi, anche di suoi amici, sue amiche artisti che mi scrivono messaggi. Lo faremo insieme, io spero lo faremo con la famiglia, con l'amministrazione, con la città, con i suoi amici, insieme faremo tante cose, perché Pino non merita solo un grandissimo concerto, una piazza, una strada, che sono cose che faremo. Secondo me merita di più, e questo di più lo sceglieremo insieme, che è il metodo migliore per ricordare Pino. Oggi ancora il dolore, perché anche personalmente devo dire è veramente dura la perdita di una persona come Pino Daniele, perché ha rappresentato la storia di tanti di noi, sicuramente della mia generazione. Ancora stanotte ascoltavo le sue canzoni, quindi adesso è ancora il momento del dolore e della commozione. Poi, quando avremo qualche momento di lucidità in più, insieme decideremo tutto. Per adesso ci sono i funerali domani a Roma. Poi abbiamo molto apprezzato anche qui un lavoro insieme con la famiglia in queste ore per portare le ceneri di Pino Daniele al Maschio Angioino, in modo che tantissimi napoletani renderanno omaggio a questo grandissimo artista e musicista napoletano. Quando arriveranno le ceneri? Questo bisogna vederlo, perché sono anche dei tempi legati alla fase di cremazione, credo non meno di 48 ore, quindi ci auguriamo che per venerdì sera, venerdì notte, per cominciare da sabato mattina poi la raccolta delle persone vicino al ceneri di Pino, però è presto per dirlo, puntiamo, speriamo venerdì notte. Così dunque noi cambiamo argomento e ritorniamo sul decreto fiscale del 24 dicembre, le discussioni che sta generando anche all'interno del Partito Democratico e sembra sempre più rappresentare in effetti, oltre che un passo falso, il primo passo verso il voto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Nonostante lo stop al provvedimento deciso per fugare sospetti di inciucio, continua ad alimentare tensioni il caso della norma salva Berlusconi inserita nel decreto fiscale. Matteo Renzi resta sotto attacco non soltanto da parte del Movimento 5 Stelle, ma anche dalla minoranza del Partito Democratico, che al Premier chiede di modificare subito il decreto senza aspettare l'elezione del Capo dello Stato, un intervento che permetterebbe di svelenire il clima non soltanto in vista del voto sul Quirinale, ma anche di quelli sulle legge elettorale e riforma costituzionale in calendario in Parlamento a gennaio. Nel frattempo resta il giallo sull'autore materiale della norma salva Berlusconi. Nel testo iniziale non c'era, ho saputo della sua esistenza solo dopo il Consiglio dei Ministri del 24, fa sapere oggi Franco Gallo, l'ex presidente della Consulta, a capo della commissione del Ministero dell'Economia incaricata di redigere il decreto. Il Movimento 5 Stelle punta invece il dito verso il capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, Antonella Manzione, ex capo dei Vigili Urbani di Firenze, i tempi in cui Renzi era sindaco. Per i grillini sarebbe stata lei ad inserire nel decreto la norma salva Berlusconi, che sarebbe stata concordata con Dennis Verdini di Forza Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo parzialmente su temi fiscali. Partiamo da questa notizia. La notizia che tutte le holding di famiglia dei fratelli Prade e di Maurizio Bertelli sono rientrate formalmente da Lussemburgo in Italia, con sede quasi sempre a Milano. È il completamento di un processo di riordino della catena di controllo già annunciato nei mesi scorsi e che ha avuto come snodo principale la fusione di Prada Holding, che controlla la società operativa quotata ad Hong Kong, in GIPAFIN SARL, con la nuova holding anch'essa trasferita da tempo a Lussemburgo all'Italia. Ma questo potrebbe essere l'anno di grandi rientri in Italia proprio da luoghi come Lussemburgo, nei quali finora si era goduto di un regime fiscale favorevole. Il perché lo chiediamo a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Hai detto bene, il 2005 sarà l'anno dei rientri, degli spostamenti, in quanto di paradisi fiscali in giro ce ne saranno sempre meno. Questo perché dopo la grande crisi, il 2008 e la grande recessione che ha colpito l'economia occidentale, tutti i paesi hanno concordato una linea dura contro l'evasione fiscale internazionale. Questo ha messo in moto dei processi coordinati in sede OCSE che hanno permesso di varare tutta una serie di nuove norme che entreranno in vigore dal 2016, che di fatto annulleranno in gran parte dei paesi dove prima c'era il segreto bancario, e per quanto riguarda le grandi multinazionali renderanno più difficile andarsi a collocare in quelle realtà dove il fisco è più leggero. Dovranno farlo dimostrando effettivamente di aver spostato lì le sedi e non soltanto avendo dei piccoli uffici, per cui certi marchingegni fiscali che permettevano di ottenere sconti davvero insopportabili poi per i comuni cittadini non potranno essere più utilizzati. Per questo si è avviato, diciamo, già da qualche mese, i lettori del Sole 24 Ore lo sanno, questo processo, diciamo, di ritorno in patria delle grandi multinazionali. Allora, grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Seguiremo questo processo, come naturalmente lo seguirà il Sole 24 Ore. E veniamo invece a fare un punto sull'inchiesta Mafia Capitale, perché non è che l'abbiamo lasciata da parte, però in questi giorni, in queste giornate, sono uscite parecchie novità. Raffaella Calandra in studio con noi. Raffaella. Sì, Simone, la ultima è una conferma del carattere proprio di organizzazione mafiosa di Mafia Capitale, perché è come ogni organizzazione mafiosa, diciamo, più tradizionale di quelle che si rispetti. Anche Mafia Capitale infatti orientava i suoi voti e alle europee del 2004 decise di puntarli sul centro-sinistra, nelle persone di Orazio Giovannelli e Nicola Zingaretti. È una lettera trovata a casa di Salvatore Ruggero, arrestato in quel filone d'inchiesta che collega l'organizzazione capitolina di Carabinieri sterminati ai clan calabresi di 'Ndrangheta a svelare anche questo retroscena. Il 7 giugno 2004, infatti, Salvatore Buzzi, considerato dai PM la mente e il braccio economico di Mafia Capitale, scrive ai dipendenti delle sue cooperative, la 29 giugno l'apostrofo e Formula Ambiente, per invitare a sostenere appunto questi candidati. Zingaretti effettivamente vinse in quell'occasione e ora è presidente della Regione Lazio, ma secondo gli inquirenti non era consapevole di questa sponsorizzazione, condivisa però pure con i boss di 'Ndrangheta. E questo è un altro modus operandi ricorrente nelle organizzazioni mafiose, diciamo tradizionali, proprio come la preoccupazione di buttare tutto ciò che possa essere compromettente. E Franco La Maestra, ex brigatista, un nome che rivendicò dal carcere anche il delitto di Massimo D'Antona, a raccontare di essersi liberato di tutto, computer, tutto buttato, diceva in un'intercettazione carpita dagli inquirenti il giorno proprio dei primi arresti. Ma dunque gli investigatori sono arrivati comunque a mettere insieme le tessere, anche quelle che erano state cestinate, e comunque l'inchiesta Mafia Capitale non è affatto finita qui. Simone. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Innanzitutto una notizia di pochi istanti fa: almeno 23 persone sono rimaste uccise nell'ovest dell'Iraq in un attacco suicida attribuito all'ISIS in un successivo scontro a fuoco con le forze di sicurezza di Baghdad. Questa notizia che arriva da fonti ufficiali irachene. Resta un po' di tensione sui mercati all'indomani della caduta di ieri. Ci sono state forti oscillazioni questa mattina. Al momento le borse sembrano aver preso la via del rialzo, un guadagno dell'1% per il FTSE MIB. Il petrolio scende sotto i $50 al barile. Chiusa la camera ardente di Pino Daniele, malumori tra i fan in attesa fuori. Le ceneri del cantautore, annuncia De Magistris, saranno al Maschio Angioino da venerdì. La delega fiscale sarà attuata senza il cosiddetto salva Berlusconi, conferma il governo. Resta alta la tensione, soprattutto all'interno del Partito Democratico. Migliaia di persone in piazza ieri nelle città tedesche in una serie di proteste contro l'Islam, 18.000 solo a Dresda. Abbiamo parlato di Roma e dell'inchiesta su Mafia Capitale, veniamo ad un'altra vicenda che riguarda Roma, ancora quella dei vigili, ancora quella dell'assenteismo, ancora quella dei rapporti difficili tra il Campidoglio e i dipendenti del comune. C'è una protesta che potrebbe arrivare già nella giornata di domani. A Roma non ci sono solo i vigili urbani sul piede di guerra, tutti i lavoratori capitolini sono in fermento dopo l'entrata in vigore del nuovo contratto decentrato e del cosiddetto salario accessorio, misure legate ai cambiamenti voluti dalla giunta guidata da Ignazio Marino, una riorganizzazione del personale che il Campidoglio ha definito una vera e propria rivoluzione che premia produttività e merito, una riorganizzazione dovuta dopo una relazione del Ministero dell'Economia di un anno fa. Il Comune di Roma era finito sotto la lente di ingrandimento degli ispettori di via 20 settembre che hanno fatto le pulci ai contratti decentrati dei dipendenti comunali, nel mirino soprattutto la parte variabile dello stipendio legata appunto a produttività e servizi. Dopo un muro contro muro con i sindacati, l'amministrazione capitolina ha proceduto comunque a mettere in atto il nuovo contratto partito il 1 gennaio, e i lavoratori non ci stanno. Domani l'Unione Sindacale di base ha indetto un'assemblea generale aperta alla cittadinanza. Roberto Betti è sindacalista della USB Pubblico Impiego. L'applicazione dal 1 gennaio dell'atto unilaterale da parte dell'amministrazione, cioè un contratto che si è scritta da sola, non poteva che trovare una prima risposta con un momento di assemblea nel quale decideremo anche le forme di lotta successive, non escludendo lo sciopero dal momento che già è stato proclamato lo stato d'agitazione del personale a suo tempo, e quindi diciamo siamo in grado, superate le festività natalizie, anche di andare ad azioni di sciopero. I nodi cruciali sono il prolungamento dell'orario di apertura degli uffici anagrafici con orario continuato dalle 8.30 alle 19 e le scuole comunali dell'infanzia, dove secondo i sindacati è stato già disposto un aumento di 3 ore settimanali per gli insegnanti. Noi crediamo che quello che sta imponendo l'amministrazione in maniera autoritaria, privi anche i cittadini di alcuni servizi importanti e qualificati. Abbiamo per esempio negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia una organizzazione che verrà stravolta impedendo di sostituire il personale assente. I sindacati di base precisano che l'assemblea è stata indetta prima dell'anomala protesta dei vigili urbani durante la notte di Capodanno. Certo è che adesso, almeno agli occhi dell'opinione pubblica, ogni protesta dei lavoratori lavoratori capitolini perderà punti di credibilità. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano Fassina del Partito Democratico, della minoranza del PD. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, questo decreto fiscale secondo lei va ritirato in toto e non solamente quella norma che è stata definita salva Berlusconi? La norma salva Berlusconi è la esemplificazione estrema di un impianto che per quanto riguarda la depenalizzazione delle frodi fiscali è inaccettabile, tanto più perché più è grande l'evasione, più è tollerata la frode fiscale, è un principio inaccettabile. Noi dobbiamo eliminare le cause che costringono davvero chi non ce la fa a evadere, non premiare i grandi evasori. Quindi per quanto mi riguarda il provvedimento va radicalmente corretto. E poi c'è un punto politico importante, perché la scelta del Presidente del Consiglio di rinviare a dopo l'elezione del Presidente della Repubblica il varo del decreto costruisce, definisce un nesso tra il decreto e il passaggio dell'elezione del Presidente della Repubblica che va assolutamente spezzato. Quindi domani, insieme ad altri colleghi, chiederemo al governo di portare subito il decreto in Consiglio dei Ministri e di inviarlo al Parlamento prima che inizi la sessione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Senta Fassina, quindi lei ha il sospetto che le due cose siano strettamente collegate, cioè lei pensa che oggettivamente quella norma sia stata inserita clausola del patto del Nazareno, per così dire? No, io non sospetto nulla, credo che i sospetti li faccia generare il genere del Presidente del Consiglio quando stabilisce un nesso tra quella norma e l'elezione del Presidente della Repubblica, rinviando a dopo l'elezione del Presidente della Repubblica il varo di quella norma. Credo che questo modo di fare complica un passaggio politico decisivo, molto rilevante per il nostro Paese, e quindi chiederemo domani al Presidente del Consiglio di portare subito il provvedimento corretto e di inviarlo subito al Parlamento, anche perché è un provvedimento che serve ai contribuenti, serve alle imprese, serve a tanti contribuenti, e quindi è inspiegabile questo rinvio nel merito e sul piano politico generale. Questa vicenda complessivamente complica la corsa per il Quirinale, secondo lei, Fassina? Crea problemi anche, come dire, all'interno del vostro partito? È una vicenda che certamente non è nata all'insegna della trasparenza e quindi complica il clima, non c'è dubbio. Tutti noi siamo convinti che tutte le forze di opposizione, e quindi innanzitutto Forza Italia, debba partecipare alla scelta del Presidente della Repubblica, ma va fatto in un contesto di trasparenza, e purtroppo quanto è avvenuto non aiuta a creare il clima migliore. Grazie a Stefano Fassina del Partito Democratico, della minoranza del PD. Le auguro buona giornata e saluto Don Dante Carraro, che è direttore di Medici con l'Africa. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buona giornata e buona Epifania a tutti. Grazie anche a lei. L'abbiamo chiamata perché lei è tornato ieri dalla Sierra Leone, uno dei paesi più colpiti da Ebola, e dove tra l'altro lavorava il medico di Emergency, che è stato ammalato, come sapete, guarito dopo le cure ricevute allo Spallanzani. Vorrei sapere che situazione ha trovato Don Dante. Ma la situazione complessivamente continua a rimanere molto molto seria, lo dico perché i casi che attualmente continuano a crescere e stanno raggiungendo, siamo complessivamente in Sierra Leone a 9.700 e qualcosa casi, quindi stanno raggiungendo i 10.000 complessivi, che sono cifre inimmaginabili, pensando che nelle epidemie precedenti di Ebola, parlo dell'Uganda, del Congo, dell'Angola, e avevamo avuto epidemie con 400, 500, 600 casi, qui parliamo di 10.000 casi, tanto per dare la dimensione del numero. Questo è un dato. E l'altro elemento è che l'elemento positivo è che sembra che nelle regioni dove della Sierra Leone, dove per prima scoppiata l'epidemia, si stia riducendo l'incidenza, cioè il numero di nuovi casi, e invece si stia spostando in altre regioni. Quindi è un segnale che lì dove l'epidemia passa rimane quei 3-4 mesi, ma dopo diminuisce. Quindi speriamo, noi siamo fiduciosi che per la primavera dovrebbe aver percorso purtroppo il paese e chiudersi, insomma dovrebbe contenersi, autocontenersi, perché è un'epidemia che dopo è un virus che ha bisogno del materiale biologico per vivere, e quando ne ha ammazzati tanti si autoriduce, e quindi per la primavera pensiamo che possa anche ridursi. Quante persone avete in Sierra Leone e come riescono a lavorare, Don Dante? Sì, noi abbiamo 5 espatriati, noi lavoriamo nel distretto di Pugeun, nel sud del paese, 350.000 abitanti, un ospedale con 75 centri sanitari. E il team nostro di espatriati italiani, in questo caso, è fatto di 5 persone, e con noi poi il nostro team ha altre 55 persone che sono locali. E il nostro approccio è di coinvolgere da subito le istituzioni locali e i colleghi locali, quindi come dire, i 5 sono degli aspetti di facilitatori e mobilitatori poi di tutti i colleghi locali. Come vivono? Vivono da una parte con la paura costante, ecco, perché la situazione è che vivi questo senso di angoscia, di paura, e che c'è, perché il rischio è là, alla portata di mano, e c'è. Dall'altra anche è un'esperienza molto motivante, perché lavorare con e insieme ci si motiva. Il direttore dell'ospedale di Pugeun è un locale e ci dice: il fatto che voi abbiate deciso di rimanere sta motivando me a non scappare, a non andare via, a riprendere coraggio e a fare anch'io la mia parte insieme. Questo è molto motivante, devo dire, quasi consolante, ci dà forza, ecco, ci sostiene. E questo è l'atteggiamento, ecco, lo stato d'animo anche. La ringrazio, grazie a Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa, e naturalmente un buon lavoro a lei e alla vostra squadra in Sierra Leone. Noi cambiamo decisamente argomento adesso e passiamo a parlare di calcio, perché è giornata di campionato, in realtà già iniziata ieri sera. Sono in campo in questo momento Udinese e Roma in un primo tempo che è destinato a suscitare polemiche, perché la Roma è in vantaggio 1-0, ma con un gol fantasma al 17° di Astori di testa. Tempo per discutere ancora una volta e anche delle soluzioni tecnologiche, naturalmente ce ne sarà in tutti i convocati a partire dalle 14. Intanto, per fare il quadro del resto della giornata, ci colleghiamo con il nostro Dario Ricci. Dario, buongiorno. Buongiorno Simone. Beh, singolare che il gol fantasma della Roma arrivi proprio nello stadio di Udine, dove era stata sperimentata la tecnologia italiana messa a punto proprio per far fronte a questi casi così controversi, tecnologia poi bocciata dalla FIFA. Per quanto riguarda il resto della giornata, alle 15 stuzzicante Milan-Sassuolo, il nuovo arrivato rossonero Cerci parte dalla panchina, ma chissà che non vi sia uno scampolo di gara disponibile anche per lui in un Milan di Inzaghi con un Super Pippo che sceglie De Jong come mediano davanti alla difesa e Montolivo mezzala in un ruolo in cui il capitano rossonero ha dimostrato di non essere sempre a suo agio. Il resto del programma: Chievo-Torino, Empoli-Verona, Genoa-Atalanta. Vedremo come risponde il Genoa, l'altra genovese, appunto dopo la sconfitta della Sampdoria di ieri. Vediamo se il Genoa manifesterà la voglia di rimanere nei quartieri alti della classifica. Poi Palermo-Cagliari con l'esordio di Gianfranco Zola sulla panchina dei sardi. Parma-Fiorentina a chiudere le gare delle 18, delle 15. Poi alle 18 Cesena-Napoli. Napoli che cerca la vittoria anche per onorare molto probabilmente la memoria anche di Pino Daniele. E poi alle 21 il big match Juventus-Inter, sembra che ci sia già una maglia titolare pronta per l'ultimo arrivo in casa nerazzurra a Podolski. Palacio potrebbe non farcela, allora in quel caso il tedesco sarebbe pronto per l'esordio con la maglia titolare nella gara più sentita per i nerazzurri, il derby d'Italia. Staremo a vedere. Grazie al nostro Dario Ricci, anche lui lo ritroveremo durante tutti i convocati perché ci farà la cronaca e il racconto della partita di San Siro, quella tra Milan e Sassuolo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Chiusa la camera ardente di Pino Daniele, malumori tra i fan in attesa fuori, arriva anche ad Alema da un ingresso secondario contestato. La delega fiscale sarà attuata senza il cosiddetto salva Berlusconi, conferma il governo, che però vuole rinviare l'approvazione a dopo il voto per il Quirinale. La minoranza PD contesta e dice no, va approvato prima. In Iraq almeno 23 persone sono rimaste uccise nell'ovest del paese in un attacco suicida attribuito all'ISIS. Migliaia di persone in piazza ieri nelle città tedesche in una serie di proteste contro l'Islam, 18.000 solo a Dresda. La borsa. Borse in diretta. E come già vi dicevamo prima nei titoli e come avete sentito in apertura con la nostra Deborah Rosciani, bene, è stata una giornata ancora una volta di tensione, se così possiamo dire, con la Borsa di Milano che ha oscillato lungamente tra ribasso e rialzo dopo un'apertura positiva, poi è andata sotto la parità e adesso il guadagno sembra piuttosto netto, più 1,18% il FTSE MIB, più 1 il FTSE All-Share. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Ancora grande incertezza, no? Sì, come hai detto tu, c'è una grande volatilità che è la parola d'ordine di oggi, anche perché ricordiamo una giornata di festività e quindi la volatilità ovviamente alle stelle a causa anche degli scambi più rarefatti. Piazza Affari comunque sembra aver imboccato da poco la strada del rialzo con una certa convinzione, adesso il FTSE MIB sale dell'1,18%, favorito soprattutto dagli acquisti sui titoli delle banche, in particolare Unicredit segna più 1,38%, Intesa San Paolo il più 2%. Erano due titoli che avevano perso maggiormente terreno ieri. Per contro MPS, che era l'unica banca che ieri era stata positiva con un progresso attorno allo 0,2%, oggi perde l'1,24%. E nonostante i nuovi cali stamattina del prezzo del greggio, gli energetici e i petroliferi sembrano tenere oggi, Eni più 1,94%, Tenaris più 2,21%, va bene anche Enel più 2,67%. Una nota sull'euro, Eleonora. Sì, l'euro rimane sotto pressione, in questo momento si attesta 1,1892 rispetto al dollaro, ovviamente ci sono ancora molti punti interrogativi, in primis sulle future mosse della Banca Centrale Europea, oltre che ovviamente ci si interroga anche su quello che sarà l'esito delle elezioni greche previste a fine mese, anche se il partito di Tsipras ha rassicurato che nel caso di vittoria comunque la Grecia rimarrà nell'euro. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore ed Eleonora Micheli. Buona giornata, Eleonora. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E veniamo adesso a parlare di una vicenda della quale ci eravamo già occupati nel corso di questa trasmissione. Ed è una vicenda che riguarda la città di Avellino e le morti per l'amianto, le morti per l'isochimica. Dovrebbero arrivare a giorni le notizie sui rinvii a giudizio nell'ambito del processo, mentre si sono registrate proprio all'inizio dell'anno altre due vittime. Il racconto della nostra Katia Caramelli. Altri due ex operai morti in questi giorni, un numero crescente di persone ammalate, un intero quartiere a rischio avvelenamento. Siamo ad Avellino, Borgo Ferrovia, dove negli anni Ottanta operava l'isochimica. La fabbrica di Elio Graziano, dove si scoibentava l'amianto dalle carrozze dei treni anche a mani nude, e dove ora, a 30 anni dalla chiusura, nel cortile sono ancora custoditi 500 cubi di amianto friabile e deteriorato. deteriorato, oltre alle tonnellate occultate sottoterra. Così ricorda quegli anni di lavoro un ex operaio, Nicola Abrate. Io mi resi conto già dal primo giorno di lavoro, però io avevo meno di 20 anni. Mi ricordo che fui portato subito immediatamente nel reparto e trovai 5-6 ragazzi che avevano più o meno la mia stessa età. Avevano i loro vestiti, i loro abiti tutti sporchi, pieni di polvere, e in mano avevano un semplice stecchetto di ferro e con quello grattavano dalle pareti dei treni l'amianto senza nessun tipo di protezione. Così io fui avviato a seguire loro a fare quel tipo di lavoro. Purtroppo ho avuto una serie di problemi perché mi accorsi qualche anno fa che avevo dei problemi di tipo respiratorio, cioè un affanno, nonostante io ho solo 50 anni, insomma, e dolori a torace, quindi mi hanno riscontrato un'asbestosi. Con l'iscrizione di altre 6 persone nel registro degli indagati, tra cui il sindaco di Avellino Foti, la Procura della Repubblica ha chiuso le indagini sul disastro provocato dall'isochimica. 29 gli indagati per i quali il procuratore capo Rosario Cantelmo ipotizza il reato di disastro ambientale colposo continuato. Presto potrebbero arrivare i rinvii a giudizio. L'avvocato Brigida Cesta rappresenta gli ex operai ed alcuni abitanti del quartiere. L'esito del giudizio Eternit, così come si è concluso in Cassazione, ha scosso un po' gli animi soprattutto dei lavoratori, perché noi di prescrizione abbiamo sempre parlato, abbiamo sempre sollevato la possibilità che la difesa degli indagati potesse preliminarmente chiedere che si dichiarasse prescritto il reato. Riteniamo che però, così come è stata impostata l'indagine dal procuratore Rosario Cantelmo, rispetto alla prescrizione i lavoratori dell'isochimica possano stare tranquilli. Naturalmente di prescrizione sentiremo parlare anche nel corso del processo isochimica, sono fatti che risalgono a circa 30 anni fa, ma almeno per quanto concerne sicuramente le lesioni e gli omicidi colposi sono fatti che si stanno consumando in questo momento, si stanno consumando all'esito di un disastro ambientale che è stato definito permanente. Migliaia di tedeschi ieri in piazza, c'erano gli esponenti del movimento islamico Pegida che hanno fatto il pieno a Dresda, i loro oppositori che hanno avuto la meglio a Colonia. Pioggia e freddo non li hanno fermati. A Dresda erano in 18.000 i sostenitori di Pegida, i sedicenti patrioti europei contro l'islamizzazione dell'Occidente. È stata la marcia più imponente da quando all'inizio di ottobre hanno cominciato a proliferare le manifestazioni della destra estrema e xenofoba tedesca. Ma di pari passo si ingrossano anche le fila dei contromanifestanti. A Berlino, Stoccarda, Münster, Amburgo e Colonia sono scesi in piazza migliaia di tedeschi anti-Pegida e diverse amministrazioni locali hanno spento le luci di edifici governativi e monumenti in segno di disaccordo con le proteste degli estremisti. Spente anche le luci della cattedrale di Colonia. Vogliamo far riflettere i cristiani più conservatori, che supportano Pegida, su quello che stanno facendo, ha spiegato il decano. Al buio anche la fabbrica di vetro della Volkswagen a Dresda. Siamo una società aperta e democratica, spiega l'azienda. Tra i politici tedeschi, Pegida riscuote assai poca simpatia. La cancelliera Merkel ha criticato severamente il movimento, perfino nel discorso di fine anno. Gente piena di pregiudizi e di odio, ha detto. Ci chiamano nazisti, arringa dal microfono Katrin Oertl, uno dei leader del movimento, perché mostriamo l'inconsistenza della politica del governo sull'immigrazione. È repressione questa. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore. Torniamo a collegarci anche oggi con il CES, il più importante appuntamento mondiale con l'elettronica di consumo a Las Vegas. C'è il nostro Enrico Pagliarini, buongiorno. Buongiorno da Las Vegas, questo è il secondo giorno di appuntamenti, secondo giorno di anteprime, anche se la fiera vera e propria aprirà fra poche ore, quando qui sarà la mattina di martedì. Qui non è festa, è il 6 di gennaio, quindi business as usual, primo giorno di Consumer Electronics Show. I 4 mega trend che seguiremo e che vedremo e molto probabilmente riusciremo anche a provare sono sostanzialmente 4 oggetti indossabili, quindi famosi wearable devices, quindi braccialetti, smartwatch, occhiali, ce ne sono di tantissimi tipi. Internet delle cose, c'è una esplosione di idee, molte sono solamente idee, alcuni sono anche prodotti, tutti legati in qualche modo alla Internet of Things. Alcune di queste cose fanno parte di un capitolo che metterei da solo, cioè la casa intelligente. Una volta la chiamavamo domotica, oggi ci sono tantissimi prodotti di questo genere, molti si collegano con Wi-Fi e fanno parte di questo nuovo mondo della smart home. E poi il grande padiglione che ha anche una parte esterna è relativo alle automobili, che sono diventate una parte della consumer electronics, e qui si fanno vedere, si mettono in mostra tutti i più grandi produttori di automobili su auto autonome, a guida autonoma, che arriveranno tra qualche anno, ma anche automobili con strumenti e sistemi di assistenza alla guida. Alcuni di questi sistemi sono già sul mercato, altri arriveranno nei prossimi anni. In attesa di vedere questi prodotti, tra poche ore, quando aprirà il Consumer Electronics Show, la giornata di ieri è stata catalizzata, monopolizzata dai grandi brand dei televisori, quindi si è parlato molto di televisori, hanno fatto le conferenze stampa di anteprima quasi tutti i grandi produttori. Sappiamo tutti che il futuro dei TV sarà OLED, ma per il momento l'unica azienda che continua a credere e a investire fortemente in questa tecnologia, che esiste già sul mercato anche in Italia, ma che vedremo sempre di più in Italia, l'unica azienda è LG, che ha presentato nuovi OLED 4K, e vedremo alcuni di questi prodotti arrivare nei prossimi mesi anche in Italia. Tra l'altro segnalo che arriveranno i primi OLED piatti, finalmente i primi OLED piatti, perché sapete che finora l'unico modo per produrli senza grossi scarti era il TV curvo. Nell'attesa di vedere tanti altri prodotti OLED, ma li vedremo nei prossimi anni, tutti si sbizzarriscono sugli LCD, l'unica tecnologia che oggi c'è sul mercato. E allora l'ultima moda per stupire i consumatori e anche per migliorare un po' la qualità dell'immagine si chiama Quantum Dots, una sorta di filtro per la retroilluminazione LED, che, se ben progettato, non è detto che tutti lo facciano per bene, ma comunque se ben progettato migliora la fedeltà cromatica di un televisore. Quasi tutti i produttori hanno presentato tecnologie di questo genere. C'è una grande euforia sul 4K, devo dire che quasi tutti i prodotti nuovi sono tutti 4K, e qui rimane il grande problema, ed è un problema anche negli Stati Uniti, dei contenuti, perché è vero che oramai sul mercato ci sono i televisori 4K con quindi una fedeltà 4 volte superiore all'HD, all'alta fedeltà, ma il grosso problema è che non ci sono contenuti in 4K. Già abbiamo il problema di avere pochi contenuti in alta definizione, figuriamoci in 4K. Comunque questo è un problema, ed è stato in parte, vedremo poi come verrà affrontato, comunque in parte verrà affrontato da una nuova alleanza che è stata presentata, la Ultra HD Alliance, che ha l'obiettivo di sviluppare standard in 4K e possibilmente anche incentivare i contenuti in 4K. Per il momento la linea torna allo studio, ci risentiamo domani. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E come sempre il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We have issues like this with all kinds of taxes. When an executive takes a flight on a corporate jet. Alan Auerbach, professore di economia a Berkeley, una dichiarazione sulla disuguaglianza, una dichiarazione su alcune delle ricette di Thomas Piketty. Vi ho fatto ascoltare Auerbach perché fa dei commenti piuttosto interessanti su quello che è il tema che ha dominato la riunione degli economisti americani che si tiene ogni anno nel primo fine settimana di gennaio. Quest'anno si è tenuta a Boston, si è chiusa ieri. Thomas Piketty

Ed è tutto per Effetto Giorno, un ringraziamento a Filippo Reggi in regia, Alessandro Marco Turli in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook, la trasmissione torna come sempre domani alle 13, noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.